America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. He took America on an ill-conceived foreign adventure dangerous to our troops. An adventure that was preordained and planned before 9/11. L'avete riconosciuta? Questa era la voce di Al Gore. Ve l'ho fatta risentire perché appartiene alla campagna elettorale del 2000, quando, cercando di recuperare Al Gore, alla fine ha finito con lo strafare, la cosa non ha funzionato e da lì in avanti è andato tutto male. Perché vi ho fatto ascoltare questa cosa? Perché questa sera ci sarà un dibattito chiave, un dibattito epico, devo dire, c'è grande emozione dappertutto, un dibattito, vi dicevo, fra Mitt Romney e Barack Obama. È chiaro che è il presidente che deve recuperare, si trova con degli argomenti difficili, la Libia che resterà un argomento centrale, perché così l'accusa è quella del cover-up, l'amministrazione avrebbe cercato di togliersi dall'imbarazzo di non aver capito che c'era un attacco in arrivo e quindi diceva che era una dimostrazione popolare, invece abbiamo saputo poi che era un attacco coordinato da Al-Qaeda. Bene, e su questo ovviamente oggi non abbiamo molte altre notizie se non quella che Obama dovrebbe vincere per poter portarsi in avanti. A Romney basta un pareggio. Domani la cronaca di questo straordinario confronto poco fuori New York. Ecco, vorrei però tornare rapidamente per chiudere un po' la vicenda macroeconomica, che resta molto importante, se ne parlerà per parecchio tempo. Ci sono degli elementi di cui ancora non vi ho parlato, che sono stati piuttosto importanti durante gli incontri FMI Banca Mondiale a Tokyo. Per esempio la questione del moltiplicatore. Il fatto nuovo è che c'è questo moltiplicatore, dice la Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, che ha un effetto deleterio, perché se per esempio l'economia asiatica a un certo punto rallenta, diminuiranno le esportazioni dall'Italia verso l'Asia, e dunque sono degli elementi che potrebbero contribuire a frenare la crescita. C'è stato tra l'altro, proprio sul tema della crescita, un dibattito molto interessante all'ambasciata italiana a Washington, organizzato da Banca Intesa, con Michael Spence, premio Nobel per l'economia 2001, Takatoshi Ito, preside della facoltà di pubblica amministrazione a Tokyo, Enrico Cucchiani, AD di Banca Intesa. Da una parte Spence dice che ci sono tre elementi: una crescita che non andrà avanti per almeno 5 anni, un'occupazione che non si riprenderà, e quel poco di crescita non creerà l'occupazione, e soprattutto una mancata cinghia di trasmissione sul reddito, soprattutto per la classe media, che frenerà i consumi. Ecco, di questo, ma soprattutto di crescita, di credito alle imprese, parlo proprio con Cucchiani perché voglio parlare con qualcuno che è al fronte, che tutti i giorni si confronta e deve prendere decisioni con situazioni difficili. Vi ripropongo questa intervista che ho fatto con lui prima di partire da Tokyo. C'è stata un po' di polemica. L'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ha inviato una lettera al Fondo Monetario puntualizzando che certe generalizzazioni, secondo loro, non sono né auspicabili né giuste, e cioè che le banche italiane, soprattutto quelle più importanti come la sua, hanno una posizione di capitale diciamo solida, più rassicurante di quello che sembrava trasparire da un rapporto del Fondo. Condivide la posizione dell'ABI? Ma guardi, io non credo che si tratti di essere polemici, credo che il Fondo Monetario vada rispettato per la missione che svolge e per la qualità del suo pensatoio economico, che direi a livelli di assoluta eccellenza. Ovviamente un rapporto finisce sempre con avere un livello di sintesi che impedisce di considerare tutte le situazioni, e quindi il rischio effettivamente è che si faccia di tutte le erbe un fascio. Credo che l'ABI abbia fatto bene a puntualizzare la posizione italiana senza polemizzare, perché il caso del sistema bancario italiano è assolutamente diverso da quello, ad esempio, del sistema bancario spagnolo. Il sistema bancario spagnolo è oggi in sensibile contrazione in termini di erogazione del credito, mentre la crescita del credito in Italia è vicina agli standard europei. Il sistema bancario spagnolo soffre di una crisi del credito problematico legato all'unico settore industriale importante nel paese Spagna, che quello del settore immobiliare, mentre in Italia la qualità del credito subisce un deterioramento, questo è certamente vero, ma che è legato al fenomeno recessivo, ma non è concentrato in un unico settore industriale, in quanto la diversificazione industriale italiana è assai elevata. Il paese più simile al nostro in quanto a struttura del tessuto industriale è la Germania stessa. Infine, le banche italiane hanno caratteristiche molto diverse da quelle spagnole, sono certamente più solide. Le banche spagnole, oltre a essere esposte al settore creditizio, sono ancora estremamente frammentate e risentono di una gestione politica. Questi problemi in Italia sono stati superati da lungo tempo grazie alla legge Amato, e il sistema italiano tutto sommato mi sembra sufficientemente robusto e solido. Qual è il suo pronostico da persona che è al fronte e non soltanto a studiare i numeri? Si riuscirà ad avere una ripresa, come alcuni dicono, nella seconda metà del 2013 o no? Io credo che progressivamente assisteremo a un'attenuazione della decrescita. Non siamo in grado di dire quando ci sarà il punto di flesso che la muterà in crescita. Ci auguriamo che possa avvenire nel 2013, però non possiamo avere alcuna certezza al riguardo. Quindi credo che sia meglio essere realistici e nel contempo lavorare però per ammodernare la nostra industria e rafforzarla, anche perché credo che sia profondamente sbagliato mettere uno stop agli investimenti. Le aziende che poi nel lungo termine vanno bene sono quelle che sanno investire in innovazione, in ricerca, in ammodernamento, anche in tempi di congiuntura negativa. E lei è pronto a finanziarle? Noi non abbiamo alcun vincolo di capacità, sia in termini di disponibilità di capitale e di liquidità, a finanziare la crescita dell'economia. L'unico vincolo è determinato dalla qualità del credito e quindi dalla qualità delle proposte degli imprenditori che ci vengono sottoposti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, i Rolling Stones tornano a suonare a New York, lo ha detto, senza aggiungere molti altri dettagli peraltro, il chitarrista della band Keith Richards in un'intervista. Poi la band lancerà anche un Greatest Hit a novembre, in coincidenza, pensate, con il 50° anniversario della loro nascita, dei Rolling Stones, un classico, Angel. Angel, Angel, when will those clouds all disappear? Angel, da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!